Abbiamo parlato le scorse volte nella lezione di Chassidut della differenza tra un intervento diretto nella creazione, nel ciò che avviene nello specifico di ogni cosa, di ogni persona, e un intervento più globale, più generale, più trascendente. Ora torniamo a citare il versetto della Torah nel libro di Devarim che abbiamo citato all'inizio, se vi ricordate. Vediamo qual è la citazione. Zeu dichtiv. Noi abbiamo quanto è scritto nella Torah. Adesso diventerà ancora più chiaro alla luce di quello che abbiamo studiato. C'è scritto Vehitbarech bilvavo lemor. La persona che pecca, che va su una strada non buona, si rassicura dentro di sé, dicendo Shalom yeli, tutto mi andrà bene. Ki bishrilut libi elech, perché io seguirò, diciamo, le indicazioni del mio cuore. Com'è possibile che uno pensa in questa maniera? Alla luce di quello che abbiamo spiegato diventa più chiaro perché. Lui spiega, ovvero verrà una persona che trasgredisce, che fa un peccato. Mitbarech belivavo, si rassicura dentro di sé nel proprio pensiero, nel proprio cuore. Shiyelo shalom be'ashpa'at achayo achayut vecholtuv. Che tutto ciò, il flusso che viene dall'alto, gli andrà tutto non bene, gli andrà benissimo. Be'adrabah, al contrario, beribui ha'ashpa'a, visto che lui, kibishrilut libielech, segue non l'indicazione della Torah, ma segue l'indicazione del suo istinto, delle fische olech bishrilut libo, shelo al pia Torah davka, proprio perché non segue la Torah, proprio per questo gli sembrerà di andare ancora meglio, uscirà fuori dai parametri e, diciamo così, è in contatto più con l'aspetto trascendente che non guarda i dettagli. Alidezei e damme benafsho, la persona immagina nella sua mente, kabel ribui hashpa'a, di ricevere un grande, importante flusso di bene, di energia, di vita, mibchinat makif elyon, ce l'ho al picheshbon, dal livello che abbiamo detto si chiama il livello che circonda, trascende, senza nessun cheshbon, senza nessun calcolo, nessuna indicazione, nessuna diciamo indagine, che mo haklipot vasitrahra, esattamente come gli elementi che sono contrapposti alla kedusha, le klipot, la klipa, la buccia che abbiamo spiegato, e la sitrahra, cioè l'altra parte, tutto ciò che non è la kedusha, com'è che vive così fortemente, così che va, com'è che va avanti così, perché proprio perché non sta nei parametri, proprio perché sta al fuori dei parametri, allora non c'è il concetto del cheshbon. Il cheshbon è limitato, abbiamo spiegato la differenza nelle ultime due lezioni che si possono sentire nelle registrazioni. E quindi, vezehu, questo è il senso del versetto, chi bishrilut libi elech. La parola chi in ebraico ha diversi significati, potrebbe essere anche un significato di motivazione. Perché? Chi? Perché? Bishrilut libi elech, che non è necessariamente il senso semplice di questo versetto, ma in questo contesto possiamo sì spiegarlo in questo senso. Perché Shalom è lì? Perché mi andrà tutto bene? Chi? Poiché Bishrilut libelech, perché seguirò il mio cuore, il mio istinto, e di conseguenza tutto mi andrà bene. Se non seguo il mio istinto, se seguo quello che la Torah vuole, allora lì bisogna vedere se è meritevole, non è meritevole, quanto è meritevole. C'è il Cheshbon, si rientra nel parametro. Se invece uno si affida e sente e segue... Se invece uno non segue quello che è indicato, segue solo quello che vuole lui, allora è fuori dai parametri, no? È come uno che dice, io faccio la dichiarazione dei redditi così come bisogna, ok? Fai la dichiarazione dei redditi, grazie a Dio, stai nella legge, però lì la legge guarda ogni centesimo. Se uno dice, io non faccio la dichiarazione dei redditi, io faccio tutto sotto banco, tutto nero, non esistono scontrini, non esiste niente, allora è chiaro che la legge... fino al momento in cui arriva, ma se finché è quel momento è tutto, non c'è cheshbon, vive una bella vita. È davvero una bella vita? Adesso vedremo che non è davvero una bella vita, però sembra che viva una bella vita. William dice di sì, no. Però... dico, in quel senso che ha detto con la legge, con le tasse... Per dire, vi ho fatto un esempio per un po' avvicinare... Hai trovato un esempio sbagliato. Fatto un esempio... Faccio un esempio per avvicinare un po' al nostro pensiero quello che stiamo cercando di trasmettere qui. Non è un concetto solo mistico, è un concetto anche pratico. Se guardiamo in questo clima, Ken? בזמן של ברלוסקוני, הכל היה, ברלוסקוני בזמן שלו, הכל היה מה שיהיה, יהיה. הכל נזרם, הכל הלך בסדר, הכל זה. כשהגיע החשבון במכה אחת, בבום, כשהגיע לבוא החשבון עם כל מדינות אירופה וזה, והוא... Quando è arrivato il momento del Hezbon, allora è stata una... La Grecia è uguale. No. Molto bene, ok. Comunque. Le mans, fota, ravà e tazmea. Abbiamo detto la, il versetto... Oh, bravo. Oh, Zeniratov. Le mans, fota, ravà e tazmea. Cioè, abbiamo spiegato che questa parola sfot ha diversi significati, uno dei quali è legato alla parola tosefet, yosef, aggiungere, cioè molto. Lashon ribui, v'hainu, shebeharava, la tzmea è la assetata. Abbiamo detto chi è assetata? La neshama, perché vuole sempre avvicinarsi ad Akadosh Baruch Hu, essendo legata a un corpo è difficile, e quindi è assetata. Invece ravà è il sazia. Come si dice il contrario di assetato? Come si chiama? La... Sazio per cibo, no? Per... Sazietà. No, sì. Sazia è cibo. Vabbè, infatti, però, il senso... Uguale. Ok, il sazio non, è, non ha sete. Uguale. È sazio. Chi è sazio? La sitrachra. L'altro lato è sazio, perché tutta la materia è presente, è quello che gli interessa. E allora non ha questa sete. È appagato. Nimshach, ribui, ashpa, yoter. Allora lì c'è mikmo atzmea. Lì sembra che ci sia più flusso rispetto a dove invece c'è la sete. Su sitra di kedusha, che dove c'è la sete è il lato della kedusha, perché c'è la sete per la kedusha, che è difficile arrivarci in questo mondo. E lì inoltre si segue, come abbiamo spiegato nelle ultime lezioni a lungo, nimshachet ashpa aliedei sedera ishtalshelut. Ciò che è il flusso che arriva, quando si sta nei parametri, è un flusso che arriva secondo l'ordine della catena dei livelli che va da uno all'altro. Sheu bifchinat kvul, che rappresenta il concetto di limite, di definizione, di chiarezza. Questo arriva qui, da lì arriva là, eccetera. Aval harava, ma quella che è sazia, mekabelet milemala misedri shtashlut blidin v'cheshbon. Riceve nel senso vive in un modo che è al di là, che trascende tutto questo Ishtashelut, che trascende tutta questa catena e trascende tutto questo din, questa regola e il cheshbon e il calcolo. Valze Omer, su questo il versetto continua e dice: Lo Yoveh Hashem se lo achlo. Il Signore non gli darà il perdono a questo tipo di peccato, cioè. De davka ovdei kochavim u mazalot yecholim lekabel mibchinat hamakif shelo al-yedei seder shtashlut. Coloro che sono idolatri e che non si sottomettono alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, allora è come dire, va bene che ricevono, che vivono sul piano che è al di là del Cheshbon. È impostato così. Ma se tu sei, fa parte di Israel, avalo Israel, Israel devono tenersi alla funzione ufficiale del Cheshbon. Aval ki Israel em be'etzem mibchinat apnimiut. Kmo shekatuv ki chelek Hashem amo. Israel sono legati all'aspetto interiore. Interiore in contrasto a l'aspetto che circonda, abbiamo l'aspetto che invece entra nell'interno, cioè rappresenta che la luce di Hashem si limita attraverso le 10 sefirot, che è quello che si chiama appunto il Seder HaHishtalshelut. È da lì che deriva il flusso verso Am Israel in particolare. Questo si allude in maniera molto interessante nel nome stesso di Hashem, il nome tetragramma, Yud Kei Vav Kei. C'è scritto sempre nel Devarim, Ki Chelek Hashem Amo, Yaakov Hevel Nachalato, nella Shira di Azinu. C'è scritto Ki Chelek Hashem Amo. Ce l'hai? Chichele Kashem Amo. E poi c'è scritto, qui non c'è il proseguo del versetto, Yaakov Hevel Nachalato. Chichele Kashem Amo. Il suo popolo, cioè il popolo di HaKadosh Baruch Hu, Am Israel, è Chele Kashem. La sua anima è come se fosse una parte del Signore. Chele Kashem. La Neshama è una parte del divino. Che vuol dire? Proprio nel nome Hashem, Havaya, Yud Kei Vav Kei, si esprime questa allusione. Dove? Deshem Havaya Hu Besedri Shashelut. Il nome Yud Kei Vav Kei, nella sua struttura, prima la Yod, poi la Hei, eccetera, come adesso spiegheremo, indica proprio la struttura di questa Shashelut, di questa catena di flusso, di livelli. Yud rappresenta Chochmah, dice. Abbiamo già spiegato che la Chochmah è il seme dell'idea nel rapportato all'essere umano. Yud rappresenta questo seme, Yud è solo un puntino. Al di là di essere definita come una lettera, può essere definita come il punto di una lettera. Infatti tutte le altre lettere, come le scriviamo nel Sefer, partono da una Yud. Si fa una Yud e poi si prosegue con la restante parte della lettera. La Yud è solo il puntino, rimane il puntino e nient'altro si aggiunge. Quindi il Yud rappresenterebbe a livello allusivo il livello di Chochmah, questo seme, dal quale poi ci si sviluppa qualcosa. E cosa c'è dopo la Yud nel nome di Hashem? La Hei, Hei Bevina. Hei rappresenta la prossima dopo Chochmah e Bina, cioè lo sviluppo. Infatti la Hei prende la Yud e si sviluppa in tutte le direzioni, in largo, in alto e in profondità. Come un seme di un'idea che poi lo si sviluppa nella propria mente fino a diventare qualcosa che ha un inizio, una fine, un mezzo, un risvolto pratico, ha tutti gli aspetti che un'idea può avere. Questo è rappresentato dalla lettera Hei. Poi c'è la lettera Vav. La lettera Vav rappresenta il numero che corrisponde alla lettera Vav, è il numero 6. Rappresenta tutte le altre 6 sefirot. La forma della Vav indica che si va dall'alto verso il basso, in una fila come in questa catena, e rappresenta tutte le prossime tappe, dopo la Binah, Chochmah Binah, Yud Hei, prima Yud Hei, poi Vav, tutta la discesa, date con la Sfirot, tut Chesed, Gevurati, Feret, eccetera, fino ad arrivare all'ultima Hei. L'ultima Hei, Acharona Ben Malchut, rappresenta il Malchut. Cos'è il Malchut? Malchut è rappresentato con la parola. La Hei, l'ultima Hei, rappresenta l'alito che noi formiamo per esprimere le lettere e le parole, cioè vuol dire la trasmissione finale dell'idea o la messa in atto del concetto. La creazione, quando parliamo di HaKadosh Baruch Hu, nell'Ishtalshelut, la creazione vera e propria è indicata con Malchut. Quindi abbiamo tutta la catena della Ishtalshelut, dalla Yud alla Hei, alla Vav, all'altra Hei, è rappresentato nel nome di Hashem, e la Torah dice che Chelek Hashem amò. Il popolo di Israele è una parte, la sua Neshama è una parte di Hashem stesso. E Hashem in che maniera si rapporta ad Hashem? Attraverso il nome Hashem, che è indicato in questo versetto, Yud Kei Vav Kei, cioè attraverso questa catena. Questa è la scala che noi saliamo per avvicinarci ad Hashem, questa è la scala che Hashem scende, tra virgolette, per avvicinarsi a noi. Scolo conclude il brano. Ubechol makom shem havaya hu bibchinat apnimiut davka. Il nome Havaya rappresenta Kadosh Baruch Hu così come si esprime in maniera interna. Interna vuol dire non trascendente gli altri livelli che abbiamo spiegato prima, ma attraverso le tappe della catena, dell'Ishtalshelut. Ma scusa, era... Sì? Le quattro lettere, la Yod e Chochmah. La Hei pure Binah. Sì. Binah rappresentata dalla Hei, la larghezza, la profondità, la Vav, lo sviluppo dell'idea. No, data non ho capito. Ok, ok. La Vav, le altre sei, sì. E siamo, e poi l'ottava, e poi la nona, la e Malchut. Ok, allora Dat, e poi... ottima osservazione, siete bravissimi allievi. La Dat in alcuni contesti non viene contata in maniera indipendente. Vi dico il perché. Abbiamo spiegato che il Dat non è nulla di per sé. Quando abbiamo Chochmah e abbiamo Binah, abbiamo tutto a livello teorico, intellettuale. Poi, saltiamo Dat, c'è Chesed, Gevurah, cioè il modo che si esprime poi quell'idea. Se ci si avvicina, se ci si allontana, la disciplina, la maniera, l'ambizione e tutte quante le altre sefirot, e Malchut è la pratica. Ok? Da'at è un ponte Il Daat è il ponte che lega la Binah, cioè l'idea finale, alle espressioni emotive, quindi al sentimento, al legame con la cosa. Il Daat è il ponte. In questo contesto non dobbiamo contare Daat come una sefirah di per sé. Questa è una delle motivazioni. C'è anche un altro aspetto di Daat, che però è un po' fuori da quello che stiamo studiando qui. Daat a volte viene considerato prima ancora di Chochmah e Binah, legato a quello che si chiama Keter Corona, cioè l'aspetto trascendente. Cioè la potenza di Daat è tale da essere legata anche all'aspetto trascendente. Ma questo prescinde dal contesto che stiamo parlando adesso. Per ciò che riguarda noi, il Daat non viene contato perché il Daat è il ponte, è un funzionale. Unisce le altre. Unisce le prime due con sì. Le ultime sei. Malchut poi è la pratica. Ok? Infatti vedete in questo diagramma, diciamo così, è in russo purtroppo, il Seder Ishtal Shelut, cioè praticamente a destra in alto, quello che è un po' più grigio, no? A destra in alto, questo è Chochmah, rappresenta Chochmah. E la sua corrispondente a sinistra, Binah. Però sopra c'è Keter. Sopra c'è Keter, che è l'aspetto trascendente. Allora se tu vedi il Daat, è sotto al Keter, perché le si lega direttamente all'aspetto trascendente. Allora c'è scritto proprio che a volte si conta il Daat, a volte no. Quando non si conta il Daat vuol dire che si prende più in considerazione il Keter, la parte trascendente. E così vedete che l'Ishtal Shelut può funzionare anche in questa maniera qui. Quindi a destra sopra Chochmah, a sinistra sopra Binah, a destra sotto Chesed e a sinistra Gevurah, in mezzo Tiferet, poi di nuovo a destra Netzach, a sinistra Hod, in mezzo Yesod che è il legame e sotto tutto Malchut che è la pratica stessa. Questo è uno dei modi di creare un diagramma dell'Ishtal Shelut. Un altro modo è di farlo tutto uno sotto l'altro. Approfondiremo più avanti, approfondiremo anche questo diagramma. Non è adesso il momento. Oggi volevamo solamente sottolineare come quello che abbiamo studiato nelle ultime due lezioni si esprime in due parole in quello che dice la Torah in questo versetto. Shalom yeli ki bishrirut li bielech leman sfot arava et atzmea. Allora lì, chi ha sete, cioè chi ha la Neshama, che la Neshama è assetata del divino, non dovrebbe andare a saziarsi con una falsa sazietà, andare fuori dai parametri. Perché lo Yoveh Hashem se lo achlo, perché non rientra nel nome Hashem. Si esterna a tutta quella che è la struttura, e la cosa è al di là dei parametri di quello che è almeno per Am Israel, almeno per la Neshama di Am Israel. La prossima volta approfondiremo ancora come si lega questo al concetto di Neshama, al concetto proprio dell'anima, e come si lega la Neshama alla Torah attraverso questi parametri. Perché ciò che delinea i parametri alla fine è la Torah. Ok? Allora questo approfondiremo la prossima volta, se Dio vuole.